Vangelo di San Luca, capitolo terzo. Or, nell'anno 15° dell'impero di Tiberio Cesare, essendo Ponzio Pilato governatore della Giudea, ed Erode tetrarca della Galilea, e Filippo suo fratello tetrarca dell'Iturea e della Traconitide, e Lisania tetrarca della Milene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caiafa, la parola di Dio fu diretta a Giovanni, figliuolo di Zaccaria, nel deserto. Ed egli andò per tutta la contrada d'intorno al Giordano, predicando un battesimo di ravvedimento per la remissione dei peccati, secondo che è scritto nel libro delle parole del profeta Isaia. V'è una voce d'uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, addrizzate i suoi sentieri. Ogni valle sarà colmata, ed ogni monte ed ogni colle sarà abbassato. Le vie tortuose saranno fatte diritte, e le scabrose saranno appianate, ed ogni carne vedrà la salvezza di Dio. Giovanni dunque diceva alle turbe che uscivano per essere battezzate da lui: razza di vipere, chi vi ha mostrato a fuggire dall'ira venire? Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento, e non vi mettete a dire in voi stessi: noi abbiamo Abramo per padre. Perché vi dico che Dio può da queste pietre far sorgere dei figliuoli ad Abramo. Ormai è anche posta la scure alla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non fa buon frutto viene tagliato e gittato nel fuoco. E le turbe lo interrogavano dicendo: e allora che dobbiamo fare? Ed egli rispondeva loro: chi ha due tuniche ne faccia parte a chi non ne ha una, chi ha da mangiare faccia altrettanto. Or vennero anche dei pubblicani per essere battezzati e gli dissero: maestro, che dobbiamo fare? Ed egli rispose loro: non riscotete nulla di più di quello che v'è ordinato? Lo interrogarono pure dei soldati dicendo: e noi che dobbiamo fare? Ed egli a loro: non fate estorsioni, né opprimete alcuno con false denunzie, e contentatevi della vostra paga. Or stando il popolo in aspettazione, e domandandosi tutti in cuor loro riguardo a Giovanni se talora non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose dicendo a tutti: ben vi battezzo io con acqua, ma vien colui che è più forte di me, al quale io non son degno di sciogliere il legaccio dei calzari. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Egli ha in mano il suo ventilabro per nettare interamente l'aia sua e raccogliere il grano nel suo granaio, ma quanta è alla pula, la brucerà con fuoco inestinguibile. Così, con molte e varie esortazioni, evangelizzava il popolo, ma Erode il tetrarca, essendo da lui ripreso riguardo ad Erodiada, moglie del suo fratello, e per tutte le malvagità che esso Erode aveva commesse, aggiunse a tutte le altre anche questa di rinchiudere Giovanni in prigione. Ora venne che, come tutto il popolo si faceva battezzare, essendo anche Gesù stato battezzato, mentre stava pregando s'aprì il cielo, e lo Spirito Santo scese su di lui in forma corporea a guisa di colomba. E venne una voce dal cielo: tu sei il mio diletto figliuolo, in te mi sono compiaciuto. E Gesù, quando cominciò anch'egli ad insegnare, aveva circa 30 anni, ed era figliuolo, come credevasi, di Giuseppe di Heli, di Mutad di Levi, di Melchi, di Annai, di Giuseppe, di Matatia, di Amos, di Naum, di Esli, di Negai, di Mahat, di Matatia, di Semein, di Josec, di Gioda, di Jonan, di Resa, di Zorobabele, di Salatiel, di Neri, di Melechi, di Adi, di Cosam, di Elmadam, di Er, di Gesù, di Eliezer, di Giorin, di Matat, di Levi, di Simeone, di Giuda, di Giuseppe, di Jonam, di Eliakim, di Mela, di Menna, di Matatà, di Natan, di Davide, di Jesse, di Giobed, di Boaz, di Sala, di Nasson, di Aninabad, di Admin, di Arni, di Eshron, di Fares, di Giuda, di Giacobbe, di Isacco, di Abramo, di Tara, di Nacor, di Seruc, di Ragau, di Falec, di Eber, di Sala, di Caiaman, di Arfaxad, di Sem, di Noè, di Lamec, di Matusala, di Enoch, di Jared, di Malerel, di Cainam, di Enos, di Set, di Adamo, di Dio.